Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo ormai a fine novembre e con l'Adico è tempo di parlare di una scadenza importante, che è quella della seconda o terza rata dell'IMU il prossimo 16 di dicembre. Ben trovato a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Sì, una scadenza che fa arrabbiare moltissime persone. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Eh sì, già sapevamo, perché insomma nel preventivo c'era di pagare almeno altrettanto di quanto si è pagato nella prima rata di giugno. I comuni, non tutti a dire il vero, anche in questi giorni hanno fissato le aliquote con la possibilità di restare uguali, di diminuire, non sappiamo chi l'abbia fatto, credo nessuno, o di aumentare, e mi par di capire che la tendenza sia stata ad aumentare. Sì, come hai detto te, siamo alla fine di novembre, per cui le persone devono ricordarsi che chi ha pagato il primo conto dell'IMU ha il termine del 17 dicembre per saldare la seconda rata, e come hai detto te, purtroppo bisogna constatare che i comuni non hanno rivisto a ribasso certamente quelle che sono state le aliquote pagate nell'acconto, ma anzi hanno rivisto a rialzo un po' tutte le aliquote, soprattutto quelle della seconda casa. La seconda, che è quella che dà evidentemente un gettito potenzialmente più alto, 0,4 per la prima, 0,76 per la seconda, per non parlare poi delle attività commerciali. Quindi almeno si paga quanto si è pagato a giugno, giusto? Però il rischio o la realtà è che si pagherà di più. Certamente, cosa è successo? Che i comuni entro il 31 ottobre nel bilancio previsionale dovevano adeguare le aliquote, quasi tutti lo hanno fatto, questo lo ha confermato un dato diffuso del Sole 24 Ore pochi giorni fa. Cosa accade? Praticamente che quasi tutti i comuni hanno aumentato l'aliquota della prima casa testando un valore medio di 0,45, quindi non 0,4 come è stata versata a giugno quest'anno dalle persone. Ma soprattutto per quanto riguarda il saldo della seconda casa, l'aliquota media non è più del 0,76 come tutti hanno pagato, ma il dato medio con cui i comuni hanno recepito la variazione è quello dello 0,97. E quindi insomma l'aumento è decisamente importante. Ovviamente è difficile fare calcoli su in quanti euro si traduce un aumento di questa misura, però insomma già lo 0,76 è tanto su valori catastali che, lo sappiamo, sono stati rivalutati, quindi si può parlare di centinaia di euro, credo. Certo, sicuramente si parla comunque di un salasso e di una batosta che andrà ad incidere nelle tasche degli italiani in un periodo molto delicato come quello alla vigilia delle feste natalizie, dove le persone magari avevano fatto conto di poter disporre la tredicesima per chi oggi può farlo, e si troverà invece che rispetto all'anno scorso dovrà pagare l'ICI, cioè l'IMU, e quest'anno a dicembre rispetto a giugno dovrà tener conto non di quanto ha pagato a giugno, ma appunto, come detto, delle variazioni che abbiamo appena spiegato. Ricordo anche una cosa per provocare un po' gli ascoltatori, che all'inizio l'IMU era stata introdotta come un accorpamento di tre tasse, che doveva essere l'IRPEF comunale, l'ICI e la tassa sui rifiuti. Invece, come al solito, i buoni governi, i buoni amministratori, in un'ottica di federalismo fiscale che qualcuno aveva annunciato e che poi, come sempre, è stato male recepito, ha tenuto la tassa sui rifiuti ed è aumentata, hanno tenuto l'IRPEF comunale e le hanno aumentate, hanno introdotto l'ICI aumentandola anche in virtù di quella che è stata la rivalutazione catastale del 160%. Tra l'altro i comuni, adesso non colpevolizziamo direttamente tutti i sindaci, ma spesso i sindaci sono anche stati costretti per compensare i tagli che sono stati decisi dal governo, quindi un comune che deve comunque far quadrare il bilancio e erogare servizi ha anche bisogno di soldi. Sì, però come abbiamo parlato nella penultima puntata, abbiamo trovato anche quelle che sono le tasse occulte che i comuni introducono per far quadrare i conti. Sappiamo che i comuni si adottano tutta una serie di apparecchiature per multare gli automobilisti, hanno introdotto l'IRPEF comunale e stanno trovando tante altre strategie per tagliare in virtù di quelli che sono dei trasferimenti che dal governo non sono stati recepiti. Però certamente l'IMU, in virtù di quella che era una tassa che ormai la gente non trovava più, non pagava più, perché comunque troviamo giusto che le tasse sulle prime case non siano introdotte, in quanto ci sono già grossi sacrifici e molto del reddito disponibile è assorbito dalla prima casa. Questa tassa qua riteniamo che sia ingiusta e pertanto, anche manifestando il nostro disappunto, purtroppo siamo qui a doverne ricordare la scadenza. Ecco, dall'altra parte il governo dice che in realtà nel resto d'Europa la casa è tassata, quindi l'anomalia italiana era non avere una tassa sulla casa. Certo, poi quando si aggiunge a tutto il resto, alla tassa sui rifiuti, che è comunque, i rifiuti sono prodotti in casa, e ad altri balzelli, questo ovviamente fa un totale molto alto. Il governo fa male a parlare così, perché se vuole, se ha il coraggio di parlare di tasse sulla prima casa, deve avere anche il coraggio di parlare di quelli che sono i servizi che rivolge ai cittadini, e oggi l'Italia per i servizi che rivolge ai cittadini siamo agli ultimi posti in Europa, per cui non si può sempre trovare l'esempio dagli altri paesi per introdurre tasse e dopo non vogliamo trarre esempi da quello che gli altri governi invece fanno nei confronti dei cittadini in termini di servizi. Poi per quanto riguarda quello che hai detto tu, dobbiamo anche ricordarci che però con la prima casa si fanno dei grossi sacrifici, e nella seconda casa sì, è giusto poter pagare un IMU fino a un certo punto non spropositata, però ricordiamo che nella seconda casa si paga anche l'IRPEF, che è certamente un altro salasso. Poi questo meccanismo di tassare tutto quello che si può tassare va a colpire chi magari si trova in affitto di un'abitazione che un proprietario come seconda casa aveva destinato, per cui sai, è sempre un po' un triangolo che si chiude, che ha come unico soggetto che ci rimette il povero consumatore, che alla fine, vuoi perché è in affitto, vuoi perché ha un mutuo, vuoi perché ha ereditato qualcosina, si trova sempre a pagare. Eh sì, in effetti avere un appartamento per chi ce l'ha magari da affittare alla fine non è più così conveniente, nel senso che non è una fonte di, se lo è, non è un introito così grande alla fine dell'anno, mi pare. No, perché sull'affitto paghi le tasse, hai la cedolare secca, quindi paghi già il 21%, poi devi pagare l'IMU su quella che è la seconda casa, abbiamo parlato di un dato intorno al 0,96% come dato medio, abbiamo una rivalutazione catastale del 160% che ha ha elevato moltissimo quella che era un'ICI che già si pagava, quindi che di fatto non è che abbia introdotto qualcosa di nuovo. Purtroppo hanno trovato sempre quel meccanismo per farti pagare di più, ma molto molto di più, e quindi anche chi aveva fatto conto su quelli che erano degli introiti abbastanza consolidati, come poteva essere un affitto, come poteva essere una rendita, ma anche come chi ne ha una spesa che magari paga un mutuo, perché ricordiamo che chi ha comprato un appartamentino che voleva dare il figlio paga il mutuo ma non può scaricare gli interessi passivi, quindi è già penalizzato per altri versanti, comunque si trova a dover far conto il 17 dicembre con il saldo dell'IMU, e quindi l'invito a fare una verifica di quelle che sono le aliquote aggiornate presso il loro comune, che certamente scopriranno sono quelle che ha tenuto conto nell'occasione dell'anticipazione. Allora, 17 dicembre, perché il 16 cade di domenica, quindi la scadenza è spostata al giorno successivo. Il consiglio che possiamo dare è: non aspettate l'ultimo giorno, informatevi presso il vostro comune sulla modulistica e purtroppo anche sulla quantità di soldi da pagare. Grazie all'Adico, a Carlo Guarafolini, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.